un divago, percorsi ondosi attraverso la letteratura, le arti e la cultura, un programma ideato e condotto da Max Ponte. Segreterie telefoniche. Bentornati sulle frequenze di Ondivago. Recentemente siamo stati in pellegrinaggio al Museo della Radio, che si trova nella sede RAI di Torino. Vi invitiamo a visitarlo. L'ingresso è gratuito e trovate alcune foto pubblicate nel nostro gruppo di Facebook. In ogni caso, intraprendendo questo percorso, noterete che i primi programmi radiofonici, o meglio fonici, vengono realizzati utilizzando la rete del telefono. In questo breve numero riporteremo a contatto questi due mezzi di comunicazione. Lasceremo parlare i telefoni attraverso le voci delle segreterie e intrecciarsi i messaggi impersonali che spesso ci mettono in attesa. Per assistenza commerciale e amministrativa, digiti 1. Per richiedere assistenza tecnica, digiti 2. La stiamo trasferendo ad un operatore. La chiamata è gratuita, direttamente presso il tuo domicilio o sede di lavoro. Per conoscere le località dove è attivo il servizio, scegli l'opzione Servizi a domicilio. I suoi dati personali saranno trattati per le finalità e il tempo necessario alla gestione della sua richiesta nel rispetto del decreto legislativo 196 del 2003. Le ricordiamo che servizio attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, esclusi giorni festivi. La invitiamo a visitare il nostro sito. Per assistenza su telefonia fissa e mobile, digiti 1. Per informazioni, digiti 2. Se desidera assistenza sulla linea da cui sta chiamando, digiti 1. Altrimenti, digiti il numero per la quale desidera assistenza, seguito dal tasto cancelletto. Per il pagamento canone TV di tutta Italia, digiti 1. Per il pagamento di avvisi, cartelle, ICI, bollettini RAV o altri pagamenti, digiti 2. Per ascoltare il messaggio, digiti cancelletto. Con questa chiamata potrà abbonarsi. Se invece ha già fornito i dati e desidera avere informazioni sulla spedizione dei materiali, informazioni sull'appuntamento con il tecnico, conoscere le offerte a lei dedicate, variare il suo contratto o richiedere assistenza, digiti il tasto 2. Per il servizio in italiano, prema 1. Für Deutsch, taste 2 drücken. For English, press 3. Pour le français, appuyez le numéro 4. Bilisve li loga l'arabia ed radala zura rakam 5. Jeżeli mówicie po polsku, wybierzcie numer 6. Para español, marque 7. Если вы говорите по-русски, нажмите 8. Componga il codice di avviamento postale della sua residenza. Il capo inserito non è corretto. Componga il codice di avviamento postale della sua residenza. La sede osserva i seguenti orari di apertura. Il lunedì, il martedì, il giovedì, il venerdì, dalle 8.30 alle 11.30. Il mercoledì, dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 14 alle 16. Siamo spiacenti, ma la scelta effettuata non è valida. La preghiamo di riprovare. Grazie. La informiamo che si sono verificati dei tentativi di frode attraverso l'invio di email contraffatte finalizzate. Per assistenza commerciale e amministrativa, digiti 1. Per richiedere assistenza tecnica, digiti 2. Benvenuti nel servizio segnalazione guasti e dispersioni gas, acqua e servizi diversi. Vi informiamo che la conversazione verrà registrata per motivi di sicurezza. Questo servizio è dedicato all'emergenza. Se il suo problema è legato a bollette, volture o altri servizi commerciali, la preghiamo di riagganciare e di rivolgersi al servizio clienti formulando il numero verde del servizio commerciale. Per effettuare le prenotazioni delle visite specialistiche, telefonare al numero verde. Se volete potete lasciare un messaggio con nominativo, indirizzo, numero civico e il motivo della chiamata. Grazie. Sulla sua linea è attivo l'accesso selettivo di chiamata e le telefonate verso il numero selezionato non sono abilitate. Divisione lavoro, formazione e sviluppo economico, buongiorno. L'ufficio osserva i seguenti orari di apertura. Dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 16. Venerdì dalle 8.30 alle 12.30, grazie. Registrare il messaggio dopo il segnale acustico. La informiamo che il servizio in questo momento non è attivo. Per richiedere il soccorso stradale, prema il tasto 1. Per informazioni sull'assistenza sanitaria in viaggio, prema il tasto 2. Le ricordiamo che i nostri assistenti sono a sua disposizione dalle ore 8.30 alle ore 19, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi. Le ricordiamo che il servizio è disponibile anche su internet all'indirizzo... Grazie per aver chiamato il servizio prenotazioni sanità. La informiamo che il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20. La informiamo inoltre che l'elenco delle aziende ospedaliere aderenti è disponibile sul sito... Per parlare con un operatore rimanete in linea. Vi informiamo che lunedì 9 aprile la raccolta rifiuti viene regolarmente eseguita. Segreterie telefoniche. Ritrovate il nostro programma sul sito ondivago.com e intervenite sul nostro gruppo di Facebook. Ondivago è un programma condotto da Max Ponte, alla parte tecnica Alessandro Gianotti. Ondivago.com